Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Fresia Alluminio, serramenti nel segno della sostenibilità, di Andrea Ferro. Quella di oggi è una storia di famiglia e di impresa che sboccia negli anni 30 e prende forma nel cuore di Torino. È una testimonianza di intuito, lungimiranza imprenditoriale e grande voglia di fare. È la storia di Fresia Alluminio, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di serramenti d'alluminio. A ripercorrerla è Valentino Fresia, amministratore delegato e nipote del fondatore, del quale porta il nome. 1935, siamo in quel di Torino, Corso Giulio Cesare, anche citato in una famosa canzone di Gippo Farassino. Mio nonno Valentino Fresia fonda una ferramenta molto nota nel territorio piemontese. Anni 60 sviluppa la vendita a canale professionale, fabbri falegnami. 1970 mio padre decide di investire nel settore alluminio, finestre in alluminio, alluminio durabilità, efficienza energetica. Negli anni Fresia Alluminio decide di sviluppare una rete di vendita a livello nazionale ed europea, concorrenza delle multinazionali. Questa rete si chiama Assystem. La sede è a Saronno, vicino alla grande metropoli di Milano. Siamo 10 aziende che distribuiscono barre di alluminio per realizzare le finestre e insieme, rete di vendita, possiamo competere sia a livello di qualità, di tecnologia con le grandi multinazionali. Fresia Alluminio è stata la prima azienda in Europa nel 2011 a lanciare un sistema ecocompatibile. Alluminio rigenerato, barrette di poliamide, che è il materiale isolante tra le due scocche, tra i due elementi del profilato di alluminio rigenerato. 2014 chiediamo la certificazione PD ambientale, prima azienda in Europa, e otteniamo il riconoscimento. Oggi al sistema Fresia Alluminio propongono ben 9 sistemi certificati, la concorrenza massimo 2-3 sistemi. Quindi abbiamo puntato moltissimo sull'ambiente, moltissimo sull'efficienza, che sono tutti temi sempre molto attuali. Dunque, da una bottega di ferramenta di Corso Giulio Cesare a Torino, ad un'impresa capace di competere ad alti livelli grazie ad una organizzazione che fa del quartier generale di Volpiano, sempre in provincia di Torino, e del secondo stabilimento, aperto nel 1980 a Vado Ligure, in provincia di Savona, il suo punto di forza. Oggi l'azienda dispone di un polo produttivo, ad alta automazione, di 22.500 metri quadrati, nei quali si movimentano 2.500 tonnellate all'anno di profili in alluminio. Alla base di tutto c'è il fattore umano, una commistione di esperienze e di vocazioni sulla quale nel corso del tempo si è perpetuata la lunga tradizione di famiglia. Diciamo che c'è un bel connubio tra tradizione e innovazione, nel senso che mio padre è sempre stato un spirito commerciante, ha voglia sempre di investire nel selezionare i prodotti migliori e offrire un servizio molto capillare, no? Adesso parliamo sempre dell'industria, ma anche l'artigiano, la figura del tailor man, cioè di colui che progetta un serramento su misura, no? Quindi deve interpretare quelle che sono le esigenze anche di design, estetiche. Ci deve essere anche poi un connubio con l'arredamento, quindi deve essere quasi il serramentista, il produttore in fisso deve essere quasi un architetto. Poi la voglia di innovazione, e lì ho spinto sempre molto, insieme a mia sorella Cristina, abbiamo spinto sempre verso nuove tecnologie, nuove soluzioni e nuovi materiali. Lo sviluppo di Fresia Alluminio ha seguito di pari passo l'evoluzione del concetto del prodotto stesso, il serramento. Non più una semplice porta o finestra, con il passare del tempo sono diventate molto di più. Per le aziende del settore, infatti, si sono imposti nuovi materiali e soprattutto ha preso il sopravvento l'esigenza di affinare la produzione nel segno della sostenibilità e dell'efficienza energetica. Ormai obiettivi imprescindibili per concepire e orientare i prodotti. Sulla base delle proprie caratteristiche tecniche e funzionali, la finestra è diventata un segno distintivo di ogni immobile. Addirittura ne può determinare il valore. A tutto ciò vanno aggiunte le novità introdotte a livello legislativo e fiscale legate al prodotto, come ci spiega Valentino Fresia, amministratore delegato dell'azienda piemontese. Grande passaggio: fino a ieri la finestra doveva essere un oblò, doveva isolare l'esterno dall'interno. Negli ultimi anni è stato un elemento di design, adesso si trasforma in un oggetto legato, uno strumento per efficientare gli edifici. Questo è un po' il punto chiave. Adesso tra l'altro c'è uno strumento, un incentivo straordinario, si chiama sconto in fattura, quindi sia la persona fisica, il committente, sia l'azienda, la persona giuridica, possono pagare la metà i serramenti. Frese Alluminio è la prima azienda in Italia che aggrega tante commesse di riqualificazione energetica e quindi il committente risparmia la metà. Quindi un vantaggio veramente molto importante. Molto interessante anche per gli sviluppatori immobiliari, mobili merce. Praticamente l'immobile merce recupera, può utilizzare la detrazione fiscale oppure lo sconto in fattura. Quindi il legislatore sta promuovendo tutta una serie di iniziative molto efficaci, perché noi abbiamo degli obiettivi a cui sottostare. Dobbiamo diminuire l'emissione di anidride carbonica, perché sennò l'Europa ci sanziona, perché sennò chiaramente lasciamo ai nostri, le nuove generazioni, un pianeta diciamo più inquinato, e quindi il nostro obiettivo è passare dall'edilizia a un'azienda che propone efficienza energetica. Nel mondo ci sono gli investitori che vogliono investire in efficienza energetica, quindi è veramente il business uno dei business del futuro. All'interno di questo business in grande crescita, inevitabilmente il mercato si è nutrito di nuovi stimoli e ha valicato i confini tradizionali. La competizione si è fatta sempre più agguerrita e ha imposto la massima attenzione non più solo sulla qualità del prodotto. Un'importanza strategica crescente hanno assunto infatti i servizi offerti, sui quali in molti casi si differenziano le esigenze e le preferenze dei clienti da comprendere e soddisfare. Nel settore dei serramenti, insomma, la sfida è apertissima e i concorrenti arrivano da ogni parte. Vincerà chi riesce a proporre non solo il prodotto, ma i servizi, tutti i servizi legati alla proposta. Quindi fino a ieri c'era una proposta tecnica, una soluzione tecnica, proposta di design, quindi disegni in 3D. Adesso noi dobbiamo diventare anche dei fiscalisti, dobbiamo anche proporre la soluzione migliore al nostro cliente per ottimizzare quelli che sono i costi e di conseguenza i benefici per il committente. Quindi più l'azienda propone delle soluzioni, diciamo, efficaci per il committente, e più riesce a competere con anche le multinazionali. Le multinazionali propongono degli ottimi prodotti, però hanno dei tempi di reazione molto lunghi. Vantaggio della nostra azienda, che è molto dinamica, molto veloce. Oggi i giovani dicono un'azienda smart. Partita negli anni 30 da una bottega di ferramenta nel cuore di Torino, oggi Fresia Alluminio fattura 20 milioni all'anno. I dipendenti diretti sono una settantina. Oltre al fattore umano e familiare che ha spinto lo sviluppo dell'azienda, sullo sfondo si impone un marchio indelebile che costituisce il valore aggiunto per eccellenza anche in questo settore. È il Made in Italy. Vale alla stregua del segno subito riconoscibile, che denota una linea e che esprime fantasia e originalità, come sottolinea Valentino Fresia, amministratore delegato dell'azienda di serramenti. La nostra azienda, il nostro gruppo Alsystem, siamo tutte aziende italiane, produttori, i nostri clienti sono quasi tutti italiani, i componenti sono italiani, adesso stiamo partecipando anche a delle certificazioni per ottenere la filiera ambientale e con il, diciamo, utilizzando il Made in Italy, nel design è la caratteristica più importante. L'Italia è stata la prima azienda, la prima nazione che ha proposto un serramento raggiato. 25 anni fa tutti i serramenti erano squadrati. Un produttore italiano ha iniziato a proporre delle linee arrotondate, sagomate, che ricordano i serramenti antichi, quelli dei centri storici. Quindi il gusto italiano anche nel nostro settore ha vinto rispetto alle aziende tedesche che propongono solo, quasi solo serramenti squadrati. Quindi il design sicuramente è l'elemento differenziante delle nostre aziende. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.